La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, puntuali ogni sabato con il cinema su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, questa è La Rosa Purpurea, con una settimana di una dozzina di nuove uscite, ma soprattutto di tanto buon cinema. Ed è una cosa che ci fa piacere annunciare, perché vedrete, i film di cui parleremo sono tutti film che vale davvero la pena andare a vedere. Settimana dominata dai primi sussulti natalizi, se vogliamo, perché Heart of the Sea di Ron Howard è il primo filmone classico, diciamo, per il pubblico del periodo più caldo dell'anno sotto il profilo del cinema, ma c'è anche tanto cinema europeo di grandissima qualità, e proprio da qui vogliamo cominciare, con un film che si intitola La Isla Minima. Ha vinto 10 premi Goya in Spagna, che sono gli Oscar spagnoli, o i David italiani, o i César francesi, insomma il più bel film uscito in Spagna durante il 2014, secondo la critica locale. È un noir ambientato in una Spagna appena post-franchista. Estrella ha 17 anni, Carmen ne ha 15. Il padre è il barcaiolo dell'isola, vivono più o meno a 3 chilometri di strada. La sera che sono scomparse, stavano tornando a piedi dalla festa e una donna le ha viste salire su una macchina. È stata l'ultima persona che le ha viste. Questo posto ingoia la gente. Un giorno ci sei e il giorno dopo non esisti più. Siamo nel sud della Spagna nel 1980, un piccolo villaggio agricolo in un paesaggio straordinario come quello della foce del Guadalquivir, risaie, canneti, campi, pascoli. Ebbene, in questo posto dove si sta festeggiando una festa tipica, tradizionale, arrivano due poliziotti. Arrivano perché sono scomparse, come avete sentito anche dalla clip, due ragazze. Non è la prima volta che succede durante quella notte di festa, una notte di eccessi, che ragazzi, soprattutto ragazze, spariscano. Arrivano i poliziotti, arrivano anche con il loro passato, un passato forse un po' da lavare, un po' da rivendicare, un passato che ha anche le radici dentro il momento storico che si è appena concluso, e subito troveranno l'ostilità del posto, ancora attaccato a una sorta di post-feudalesimo che ancora non si è trasformato. Lei non sa come funzionano qui le cose. Sì che lo so, come dalle altre parti. Per me non è un castigo, non voglio fare l'eroe. Me l'avevano detto che lei creava problemi. E che altro ti hanno detto? Sapete perché siete qui? No, delle mie figlie non interessa a nessuno. Quindi non raccontate storie e trovatele. Un saluto a Boris Sollazzo, ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Ciao Boris. Buongiorno a tutti, buongiorno Franco. Filmone questo, La Isla Minima, assolutamente. I toni del trailer sono quelli del giallo classico, capire chi ha fatto sparire queste ragazze, dove sono finite. Però lo fa il regista del film, Alberto Rodriguez, con intanto un ausilio fotografico e di regia veramente fantastico, e anche andando a scavare nel torbido di una storia nella quale da vicino nessuno si salva. Ma film pazzesco, anche perché forse fin dal titolo ti pone in una situazione di scarsa attesa, no? Per quel minima che ti cogli assolutamente in fallo, perché poi appunto scopriremo il motivo del titolo, e ti ritrovi di fronte a qualcosa che sembra la bella copia di True Detective. E non parliamo di emulazione, non parliamo neanche di imitazione, ma parliamo proprio dello stesso tipo di ispirazione altissima in cui il genere si fa interprete della storia, sia con la S minuscola sia con la S maiuscola, se poi c'è differenza, perché in questo caso noi realizziamo quanto il genere sia spesso modo di tradurre la memoria, quanto il noir sia qualcosa a cui consegni quella analisi politica e storica che diventerebbe moralismo, diventerebbe ideologia in qualsiasi altro film. E il motivo è semplice, c'è la struttura più classica della narrazione di genere. Addirittura i due poliziotti, no? Come True Detective, due poliziotti estremamente diversi, due poliziotti con storie molto diverse, due poliziotti che addirittura sono in disgrazia per motivi opposti, sempre legati alla politica, ma per motivi opposti, due poliziotti che hanno anche due approcci diversi, come gli spettatori che si ritrovano a guardarlo. In una Spagna post-franchista non c'è nulla di appiccicato addosso in maniera ideologica, ma tu senti tutto il sapore di quel periodo, tutta quella violenza repressa e depressa. A me è venuto in mente un altro film molto bello, Il Clan, che abbiamo visto a Venezia, dove si capisce che un modo di portare avanti diciamo un'attività seriale di assassinio e di sequestro veniva di fatto facilitato da un regime che della violenza faceva il proprio cardine. Ecco, in questo senso quel villaggio, quell'isla minima che protegge la propria memoria più nascosta è esattamente quella, è la dimostrazione di come un regime non è solo l'annullamento della democrazia, ma è l'annullamento dei diritti umani fondamentali, cioè il fatto che la gente si abitui alla violenza, si abitui all'orrore e in qualche modo lo faciliti, ne diventi silenziosa complice. Ecco, l'isla minima è tutto questo, è un grande film di genere che tu potresti vedere in qualsiasi posto, con qualsiasi protagonista, e allo stesso tempo però ci racconta molto di un'Europa e di una Spagna che fino a pochissimo tempo fa, almeno a livello storico, aveva dentro di sé un segreto inconfessabile. È davvero un film clamoroso che ha meritato tutti i suoi premi e che è sicuramente una delle cose migliori della produzione europea di quest'anno. E allora, questo è La Isla Minima, il film con cui abbiamo voluto meritatamente cominciare La Rosa Purpurea. Adesso viabilità, fra poco torniamo con un altro paio di proposte, parleremo anche di cinema italiano con La Felicità è un sistema complesso e cominceremo anche a giocare in... Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta La Rosa Purpurea. Eccoci qua ancora, La Rosa Purpurea. Vi abbiamo promesso cinema italiano, e cinema italiano sia. La Felicità è un sistema complesso, titolo insomma che ci lascia riflettere, ma prima il Papa, perché per la prima volta penso nella storia del cinema arriva un film nelle sale italiane, un film italiano su un Papa vivente, peraltro. Che Papa Francesco sia diventato una specie di star non solo per il grande popolo cattolico, ma anche per tanti che magari non ci credono o ci credono a modo loro, è un fatto, perché la sua umiltà, la sua simpatia hanno trascinato tutti, e questo ha portato addirittura all'istituzione di riviste Il Mio Papa, cioè di cose di questo tipo. È un fenomeno che adesso ha anche il suo cotè cinematografico, perché la firma è quella di un regista importante del nostro cinema contemporaneo, Daniele Lucchetti. Il film è una produzione comunque internazionale, con Rodrigo de la Serna, Sergio Hernández, Muriel Santa Ana, e racconta il Bergoglio fino a quando, a quella sera, a quella notte in cui si è affacciato al soglio pontificio. Anna Maria è sparita da 20 giorni. L'ho cercata dappertutto, nei commissariati, negli ospedali, ma niente, niente. Non posso tornare indietro. Ora basta! Cosa c'entrano i padri Murias e Longaville con chi mette le bombe? Assolutamente niente. Andiamo, presto, presto, presto. Forza. Hanno trovato Angelelli sul ciglio di una strada, col cranio fracassato. Una per lei e una per il sindaco. Davanti a queste vittime possiamo voltarci dall'altra parte. O possiamo rispondere ai criminali: non prendetevela con mio fratello. Che tu possa andare dove più ti amano. Boris, Jorge Bergoglio, dai tempi in cui era studente nella Buenos Aires degli anni 60, ai primi passi nell'ordine dei gesuiti, ai primi ostacoli alla violenza del regime di Videla, con delle immagini anche veramente molto molto crude. La parte sul rapporto con appunto gli anni del regime di Videla è la parte più sostanziosa del film, e mi pare che Daniele Lucchetti se la cavi davvero bene. Assolutamente d'accordo, è uno di quei prodotti telecinematografici, e lo dico senza snobismi, per intenderci, siamo le parti della meglio gioventù, che uniscono divulgazione, formazione, racconto storico recente e cinema in maniera virtuosa, assolutamente virtuosa, attraverso l'arma del biopic, che ha i suoi limiti ovviamente artistici, perché ti vincola a un sentiero più stretto di altri, ma che poi va a finire bene. C'è da dire che Daniele Lucchetti è un narratore solidissimo, è uno dei pochi che ha una visione quasi da reporter storico, che gli consente di dare uno sguardo alla storia recente che altri forse non hanno la lucidità di dare. Ha la possibilità di raccontare qualcosa della nostra memoria collettiva, l'ho sempre fatto, mio fratello è figlio unico, gli anni felici, cioè tutta una serie di storie e di racconti che ci coinvolgono in prima persona, che abbiamo vissuto noi stessi, ma che abbiamo già storicizzato, e che altri non sono capaci di fare se non pervadendoli di ideologia. Nel caso di Chiamati di Francesco, lui tra l'altro è di fronte a una sfida piuttosto complicata, perché siamo in presenza di un Papa che intanto è il Papa degli atei, sembra più amato da chi non è religioso, da chi non è cristiano, che dai cristiani stessi, per le sue aperture, per la sua capacità di essere popolare, di dialogare con il rabbino e il capo della Chiesa ortodossa, ma anche con Diego Armando Maradona, e scherzare su Diego Armando Maradona per aprire sul preservativo in Africa come metodo di prevenzione delle epidemie di malattie sessuali, fino ai divorziati e via dicendo. E lo fa, ed è molto intelligente in questo, non raccontandoci che cos'è il Papa adesso, perché i media ne sono pieni, come hai detto, addirittura sono nati dei media dedicati direttamente al Papa, ma raccontando quello che sappiamo di meno, cioè la sua storia. Storia che tra l'altro è stata in qualche modo anche sporcata da alcuni dubbi, pensiamo ai libri di Core Verbischi. E lui lo fa con sempre cercando di evitare la geografia, secondo me aiutato da un grande attore come Rodrigo della Serna, che dà una visione, non dico da curato di campagna, ma una visione sobria di questo Papa, un'interpretazione molto umana, molto umile, e questo aiuta ad entrare in empatia col personaggio. La narrazione e la fotografia sono classiche anche per un prodotto televisivo, ma molto di buona qualità, e alla fine siamo in presenza di un racconto, ora ci vuole una parabola, che oltre ad essere istruttiva è anche molto interessante, quindi assolutamente da promuovere, anche perché finalmente forse non lo vediamo come una star, ma come una persona normale. La persona normale del Papa Bergoglio di Daniele Lucchetti in Chiamatemi Francesco, distribuzione piuttosto capillare nei cinema italiani in questo weekend. Andiamo a giocare insieme, diciamo che saltiamo dal sacro al profano con il nostro DVD Game. Io credo che da qualche parte ci sia un cattivo col potenziale per raggiungere la grandezza, e potrebbe essere uno tra voi. E allora, se avete già indovinato di che film si tratta, questo è il nostro DVD Game. Dovete scriverci il titolo del film, il vostro indirizzo per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana, ma più tardi vi diamo un'altra possibilità. Parliamo di un altro film, Boris, si intitola La felicità è un sistema complesso, dicevamo titolo che induce alla riflessione, è un altro film italiano diretto da Gianni Zanasi, un regista che è sempre interessante da seguire per il suo modo di raccontare. Sentiamo una clip e ne parliamo. Sono fiero del mio lavoro. E io convinco dei dirigenti responsabili a mollare. Per l'azienda di mio padre non mi interessa niente. Per cui fammi firmare quelle carte. Dobbiamo mandare a casa qualcuno. Mamma e papà non l'avrebbero mai fatto. Dottor Giusti, perché non dice qualcosa a lei? Vi ho spiegato la realtà, invece fate quel cazzo che volete senza dire niente a mia Camilla. Dottor Giusti, ottimo lavoro. Ti stupirò, vedrai. Nelle sale già da qualche giorno La felicità è un sistema complesso, dicevo, di Gianni Zanasi con Valerio Mastandrea e Beppe Battiston, diciamo i due attori più riconoscibili. La storia però non i più importanti per forza, perché c'è anche un ragazzino che ha un ruolo fondamentale. È la storia di una sorta di non tagliatore di teste, ma insomma un manager, appunto interpretato da Valerio Mastandrea, che per lavoro avvicina nomina aziende che sono dirette da manager che non ce la fanno, insomma, perché non sono incompetenti, perché hanno sbagliato delle scelte, e cercando di carpirne l'amicizia, li invita e li convince ad andarsene, a cedere l'azienda a chi è più capace, evitando il fallimento. Una sorta di samaritano del management, diciamo così. Cambieranno le cose quando una mattina Filippo e Camilla, due ragazzi, due fratelli di 18 e 13 anni, rimangono orfani per l'incidente stradale in cui muoiono i due genitori, ed Enrico viene chiamato a impedire che quell'azienda possa essere guidata da un ragazzo di 18 e una ragazzina di 13. Chiaramente però le cose in termini empatici e anche forse di etica cambieranno proprio sotto lo sguardo del protagonista. Boris, dicevo prima, Gianni Zanasi, regista sempre molto interessante, capace anche di raccontare l'Italia delle famiglie e dell'economia, lo ha fatto anche col suo film precedente, e con sempre un velo di ironia sul volto, una risata che comunque ti strappa, e che ha, se vogliamo, anche sposato un po' Valerio Mastandrea come il suo attore feticcio. Assolutamente sì, è un cambiatore di teste più che un tagliatore di teste. Lui va a cercare appunto queste storie di figli di papà che per motivi diversi assumono il comando, ma non sono tagliati per quel comando, stanno dilapidando la ricchezza sia in quanto a risorse finanziarie sia in quanto a risorse umane delle loro aziende, e insomma li convince a realizzare i loro sogni, che non sono legati a quell'azienda, spesso sono partenze e progetti improbabili fuori dall'Italia. Chiaramente tutto parte dal fatto che c'è un attacco, anche se non ideologico ma quasi umano, al capitalismo familiare, che in Italia è diventato capitalismo familistico, cioè di queste nuove generazioni che non sono pronte a prendere il comando, probabilmente perché le vecchie sono durate troppo a lungo e gli hanno evitato ogni tipo di sofferenza, di sacrificio e di percorso a ostacoli, e quindi ci arrivano completamente impreparati. Partendo da questo, però, secondo me il Zanasi fa quello che sa fare meglio, cioè Zanasi porta avanti un discorso contro le ipocrisie di cui è pervasa la nostra vita, di cui è pervasa la nostra narrazione quotidiana. L'ipocrisia di Valerio Mastandrea, dirigente Don Chisciotte, che è convinto di fare il bene del capitalismo italiano, ma di fare il bene in generale di queste aziende, perché le salva da un fallimento sicuro, ma la verità è che poi lavora per un'azienda che è ben più cinica dei dirigenti che lui taglia con l'inganno, anche se è un dolce inganno. L'ipocrisia di questa stessa azienda, l'ipocrisia degli amici che gli stanno vicino, questi schemi consolidati in cui tutti si mentono, in cui tutti ci guadagnano, vengono rotti da due Alici nel Paese delle Meraviglie: Asatia Ron, che è appunto questa donna che finisce nella vita di Giusti, un po' come, se vogliamo, Julia Roberts in quella di Richard Gere in Pretty Woman, e la piccola Camilla, che è un po' la chiave di volta, no? della storia, e si va avanti così. Che fa Zanasi? Zanasi lo racconta con dolcezza, senza ideologie, senza pretendere di avere ragione o di avere verità in tasca, portandoci piano piano nelle vite un po' sbandate di queste persone. Nessuno ha la solidità che crede di avere, nessuno ha le certezze che crede di avere, e come al solito fa questo cinema del dubbio, questo cinema della fragilità, in cui Valerio Mastandrea, secondo me, riesce ad essere interprete perfetto, con quella sua autoironia naturale e quella capacità di apparire allo stesso tempo una guida e però un fuscello fragilissimo, ed è davvero bravo in questo nell'interpretazione. E Zanasi lo fa con una regia ancora più matura, ancora più difficile, che purtroppo si perde solo verso la fine. L'ultimo quarto d'ora si perde perché cerca forse di concludere troppe storie. Però è un ottimo film di un ottimo regista, a cui faccio però una preghiera personale: non aspetti altri 8 anni per fare un altro film, perché di lui c'è bisogno più frequentemente. Assolutamente condivisa, tra l'altro tanti ne sono passati da Non pensarci, l'altro film con Valerio Mastandrea, bellissimo, che e Beppe Battistone anche in quel caso che vi raccontavo prima. Allora andiamo un attimo dalla regia, torniamo fra poco perché ci aspetta il primo filmone di atmosfera natalizia, grande storia marinaresca, una sorta di dietro le quinte di Moby Dick con Heart of Sea. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. La Rosa Purpurea. Eccoci qua, La Rosa Purpurea torna con un altro grande film, proprio come ambizioni, come dimensioni, quel ritorno del grande cinema classico americano con gli spazi, la gente, le persone, le navi, in questo caso il mare e anche le balene, perché stiamo parlando di Heart of the Sea, sottotitolo italiano Le origini di Moby Dick, tanto per darci l'assonanza e essere sicuri che nessuno possa sbagliare. La firma è quella di Ron Howard, il protagonista è Chris Hemsworth, al secolo Thor per intenderci, insieme a Benjamin Walker, a Cillian Murphy, a Tom Holland e a Ben Whishaw. Cosa succede in questo film? Subito, all'inizio, un giovane arriva in una notte buia e tempestosa, siamo intorno al 1850, dalle parti del New England, arriva e chiede di entrare in una locanda. Gli viene detto di no, fa vedere alla signora, alla governante, una lettera e questa signora apre. Questo ragazzo è uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi, Herman Melville, che sta andando a raccogliere la storia di un ex baleniere, ormai diventato anziano, anche un po' depresso, che ha una storia da raccontare ma non l'ha mai raccontata. A suon di soldi da un certo punto di vista, ma anche di orgoglio, di convincimento, lo convincerà appunto a raccontarla per la prima volta e a capire che cosa accadde 30 anni prima in quei mari incredibili nei quali le balene sbuffano e sguazzano e nel quale molti uomini perdevano la vita. Eravamo diretti ai confini della terra in cerca della verità. Ho sposato un baleniere. Un baleniere che ti ama. Voglio che mi raccontiate cosa accadde alla Essex. Reggetemi! Prometti che torni a casa. Lo prometto. Voi avete visto cose che nessun altro ha mai visto. Non possiamo farcela, moriremo tutti. Potremmo anche sopravvivere. Prometti che torni a casa. Lo prometto. Cosa accadde alla Essex, quel veliero per la caccia delle balene che fu sfasciato dalla coda appunto della grande balena bianca? Questa è la grande forza di questo film. Da una parte sapere, lo spettatore lo sa dall'inizio, che stai assistendo al motivo per cui poi è nato Moby Dick. È nato uno dei romanzi d'avventura di formazione più belli e più importanti della storia della letteratura. E poi anche l'altro punto di forza è entrare in questo mistero. Avete sentito? C'è una cosa che non viene detta e noi ovviamente non ve la diciamo. Ha a che fare con la profondità dell'animo umano dentro quella storia del vecchio baleniere che è molto riluttante a raccontare. Ecco, Boris, forse questa vena, questo fatto di metterci dentro una vena quasi gialla porta il film di Ron Howard oltre la sua dimensione di grande colossal marinaresco. La domanda che dovremmo farci tutti è: voi siete proprio sicuri di voler sapere qual è la vera storia di Moby Dick? No? Io vi consiglierei, a scanso di equivoci, di rimanere alla storia di Melville, che già è atroce a suo modo e titanica. Nathaniel Hawthorne disse Melville sarà il nostro Omero e questa è la nuova epica americana, ma sicuro, e questo ve lo possiamo dire senza timore di spoilerare, è molto molto molto migliore di quella che fu la vera storia. La storia di Heart of the Sea è andare al cuore dei banchi estremi, al cuore del mondo conosciuto, l'uomo che sfida la natura e l'uomo che appunto si ritrova di fronte alla titanicità di qualcosa che non può capire, non può combattere e che inevitabilmente lo sovrasta. È quasi leopardiano come approccio, ricorda molto il Martone che mette Elio Germano e Leopardi di fronte al Vesuvio, o quelle poesie che parlano di una natura cattiva e crudele. La forza di Ron Howard è proprio quella di ripetere e ripercorrere quel suo sentiero forse preferito, cioè di quando l'uomo sfida se stesso e sfida l'immenso, l'abisso. Può essere lo spazio di Apollo 13 o l'abisso degli oceani di Moby Dick, della balena bianca, ma è comunque un gruppo di uomini, un gruppo di coraggiosi o folli, oppure semplicemente avidi di conoscenza, di potere, di fama, di gloria, o anche solo di barili di olio di balena, che sono spinti fino all'estremo e pagano le amare conseguenze. Se vogliamo scherzare sul talento migliore di Ron Howard, si potrebbe dire che nessuno racconta i fallimenti di successo come lui. Si pensi appunto ad Apollo 13, Heart of the Sea, allo stesso Rush, se vogliamo l'eroe è lo sconfitto. Se Melville racconta l'epica americana come nessuno, Ron Howard racconta l'epica cinematografica americana classica come nessuno. L'unico difetto di questo film è che forse è troppo uguale a Ron Howard. Ron Howard dice sempre di essere il primo spettatore dei suoi film, cioè lui gira solo film che vorrebbe vedere. In questo senso forse il suo gusto lo blocca e non gli può mai fare un passaggio in avanti, un salto di qualità, ma non gli fa neanche mai fare un film brutto, un film non riuscito. In Altesi abbiamo tutto quello che ci aspettiamo fin dal primo minuto, e quello che ci aspettiamo comunque è parecchio, è divertente, nel senso che diverte, che intrattiene, e poi come quella balena bianca ti sovrasta, insomma dal cinema io non saprei cosa chiedere di più, quindi assolutamente da promuovere la balena bianca, sperando di non incontrarla mai. E poi un film assolutamente a livello tecnico impressionante. Benissimo. Cioè quello che riesce a fare ormai il cinema quando è a questi livelli è davvero incredibile. Le riprese sotto, fuori, dentro, di fianco alla balena, la balena sotto le barche, sono veramente una grande goduria. Boris, grazie per essere stato con noi anche questa settimana, ci sentiamo fra 7 giorni. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, con la balena bianca di Ron Howard, con Heart of the Sea, noi ci spostiamo alla seconda traccia del nostro film misterioso di oggi. Rubatele la corona e ogni vostro sogno si avvererà. Rispetto, potere, banana, banana. Ecco, qui mi sa che abbiamo proprio detto una volta per tutte quasi il titolo. Dopo questo banana, allora, La Rosa Purpurea, @radio24.it, vostro indirizzo, titolo del film per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana. E adesso invece ci spostiamo in atmosfera musical, perché arriva a Milano un musical tratto da un film che ha segnato davvero un periodo, come Billy Elliot. Voce di Elton John, autore delle musiche di Billy Elliot, il musical, qui nell'esecuzione di Electricity, una delle canzoni che trovate anche nello spettacolo teatrale. Dicevo, arriva a Milano con la regia di Massimo Romeo Piparo, questo spettacolo che ha girato l'Inghilterra, è stato ed è tuttora rappresentato a Broadway, insomma è diventato un classico anche del musical. Billy Elliot, lo ricorderete, il film che raccontava l'Inghilterra, terra thatcheriana, la storia di un ragazzino che il padre minatore, tra l'altro minatore in rivolta contro Margaret Thatcher, vorrebbe far diventare un pugile, invece lui ama la danza, vuole fare il ballerino, e c'è uno scontro tra culture, tra tradizioni, tra tolleranza se vogliamo anche, fino però a un riavvicinamento importante proprio con il padre. Bene, tutto questo si trasferisce sul palcoscenico del Teatro Nuovo. Noi abbiamo sentito qualche dettaglio in più dalla voce del regista Massimo Romeo Piparo. Allora Massimo, quanto c'è del film dentro questo spettacolo? Il film c'è tutto, perché questa è stata forse la sua chiave di vittoria in teatro, che lo stesso autore del film ha creato la versione teatrale, quindi mettendoci sia tutto il film ma di più, perché lui stesso, Stephen Dolge, ha capito che il live, cioè la versione in bocca agli attori veri, col respiro sul pubblico, avesse sicuramente una forza ancora maggiore del film, e che la musica arriva e porta le emozioni dove la parola non arriva. Quindi io non ho solo seguito lo spirito originale dell'autore, del regista, mettendoci ancora forse un po' più di anima tipica nostra latina. Quindi ho un po' amplificato le emozioni, la parte poetica che lo spettacolo concede. Quasi tutto il film, diciamo, perché tu hai detto, mi sono fermato un attimo prima rispetto a quello che è il finale originale del film, in cui vediamo Billy ormai realizzato nel suo sogno. Qui il sogno è ancora da realizzare. E questa che hai appena citato è una scelta voluta dal regista, che nel film finisce in quel modo e in teatro ha capito invece che doveva fermarsi un passo prima, ed è la cosa molto, molto bella, perché lui inserisce Billy adulto che balla all'interno di un sogno del Billy bambino. Quindi teatralmente una carta assolutamente vincente. Cominciato tu a pensare di fare un musical, di fare il musical di Billy Elliot, quando il musical ha debuttato a Broadway, a Londra, eccetera, o quando hai visto la prima volta il film? Cioè, avevi già pensato al potenziale di musical quando vedesti la prima volta il film? No, io quando vidi il film mi piacque il film. Poi, siccome quello era il periodo dei film inglesi, cioè Full Monty, tutto quello che era, quando Full Monty diventò un musical, dissi, beh sì, certa cinematografia britannica di quegli anni, l'iperrealismo degli anni 80, forse è molto teatrale. E non feci neanche a tempo a pensarlo che Londra annunciò il musical di Billy Elliot con le musiche del Elton John, e io lì dissi, questo sarà giusto. Ho aspettato il debutto, sono andato a vederlo alle prime anteprime e uscendo ho detto, madonna, hanno proprio fatto colpo. Da lì è iniziata... Pulce nell'orecchio. Sì, solo che ovviamente non liberavano i diritti per anni e anni, fino a che, insomma, ho insistito. Dopo 10 anni mi hanno chiamato loro per dirmi, puoi fare Billy Elliot. Senti, tu sei uno specialista non solo del musical, ma anche del musical tratto da film. Hai decretato insieme a Ted Neely il successo di un Jesus Christ Superstar che rimarrà nella storia del nostro spettacolo. 7 Spose per 7 Fratelli, insomma, una serie di grandi titoli. Qual è il titolo di un film che ancora non è diventato musical o che ancora non è arrivato in Italia, a cui ti piacerebbe davvero lavorare? Guarda, sembrerà strano, ma Via col vento. Via col vento è una sfida, ma non per altro, perché continua a rimanere ancora oggi uno dei primi 3 film più famosi al mondo. Magari tutti quelli che dicono Via col vento come film famoso forse non l'hanno neanche visto o non sono arrivati in fondo, però è proprio un titolo che sta dentro la testa della gente, e allora quando una cosa sta così dentro e non è ancora arrivata sul palco, ci penso. Ci pensi e ci stai anche lavorando? Lavoricchiando, senza troppo impegno, perché già c'ho altre scadenze fissate per i prossimi 2 anni, però ci penso sì. E allora Billy Elliot, Massimo Romeo Piparo, il musical al Teatro Nuovo di Milano da giovedì 10 dicembre a domenica 10 gennaio, praticamente tutti i giorni, tranne il lunedì. A questo punto, viabilità, torniamo fra poco, soluzione del game della scorsa settimana, annunceremo i vincitori del film e un'intervista per raccontare le 100 uscite di una straordinaria collana di un video che si intitola Il piacere del cinema. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta La Rosa Purpurea. Eccoci qua, La Rosa Purpurea, quarta parte, come sempre dedicata a tutto il cinema da vedere in casa, cominciando dalla soluzione del gioco della scorsa settimana. Nel soggetto ideale si crea un rapporto simbiotico tra uomo e tuta. La tuta ha il potere, l'uomo imbriglia quel potere. E allora il film con cui avevamo giocato la settimana scorsa era Ant-Man. Avete sentito un frammento di quelli che avevamo mandato. Lo hanno indovinato per primi e vinto Andrea Cipriani di Padova e Margherita Canuti di Caselle Landi, provincia di Lodi. Saranno loro a ricevere il Blu-ray di Ant-Man. Ne parliamo col nostro Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Sì, ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. La Disney fa le cose per bene per Ant-Man, uno dei migliori film Marvel recenti con protagonista fuori dal giro degli Avengers, e propone diverse edizioni anche ghiotte per i collezionisti come quella in Steelbook. Il film è una sorta di tesoro misteristretto supereroe scritto dal talento comico di Edgar Wright, che è l'autore di L'alba dei morti dementi e La fine del mondo, e diretto dall'ottimo Peyton Reed. Tantissimi gag, momenti astratti, eleganza e divertimento. Blu-ray con trasferimento nitidissimo, audio di abituale alto standard, e tra gli extra un commento audio di Peyton Reed e del protagonista Paul Rudd, making off, scene tagliate e tanto altro. E questo era il nostro game della scorsa settimana. Parliamo invece di una collana, di un video che è arrivata a 100 tappe, 100 uscite, 100 momenti di grande cinema raccontati da Il Piacere del Cinema, appunto la collana di Teodora On Video, diretta da Vieri Razzini, critico cinematografico fra i più noti del panorama italiano, che è in collegamento con noi. Ciao Vieri. Sì, buongiorno. Ben ritrovato alla Rosa Purpurea e ben ritrovato con questa puntata numero 100 di una storia che sta andando avanti molto bene, trovando tra l'altro, come dire, nel cinema d'autore, nel cinema di riscoperta, come amo definirlo, il suo mainstream, no? Ed è una scommessa che forse 100 titoli fa non era così facile da vincere. Quali sono stati secondo te gli elementi che vi hanno permesso di arrivare così lontano? La costanza, un po' di fortuna e soprattutto la gran passione per il cinema, che devi andare a scovare, e soprattutto devi essere convinto di proporre qualche cosa che valga veramente la pena. Senti Vieri, abbiamo giocato proprio qualche giorno fa con Tre passi nel delirio, e devo dire che i nostri ascoltatori come sempre si sono dimostrati all'altezza, indovinando soprattutto l'episodio di Toby Dammit, che come forse si prestava un po' di più. Però avete fatto un gran lavoro su quella edizione. Io non avevo mai pubblicato cose che fossero già uscite in DVD, però questa volta ho fatto un'eccezione proprio per il numero 100, perché era in fuori catalogo da un sacco di tempo. Voglio dire, gli altri, l'episodio di Malta, l'altro è bello, quello di Vadim, insomma, così, però è divertente da vedere così. Quello di Fellini, l'episodio di Fellini è un capolavoro, è proprio una delle sue punte massime della seconda parte della carriera, quindi mi sembrava che fosse proprio veramente doveroso ripubblicarlo. E poi anche ti fa vedere la libertà rispetto alla fonte, no? Perché erano tre racconti di Poe, questo che si chiamava Non scommettere la testa col diavolo, io sono andato a rileggerlo per curiosità, è quasi un'altra cosa, ecco. Tre passi del delirio, il numero 100, il numero 101, cioè intendo dire, cosa succede adesso? Che cosa succede? È una brutta domanda, nel senso che devo riassumere le idee, vedere che cosa c'è in circolazione. Per esempio, ecco, una curiosità posso dirti. Allora, c'è un film della Magnani diretto da Jean Renoir che si chiama La carrozza d'oro, che è un capolavoro assoluto, e siccome nella produzione c'era una parte italiana, non si riesce a venire a capo dei diritti. È pubblicato in Germania, è pubblicato in Francia, è pubblicato in America, e da noi non si può, perché può saltare fuori il tipetto sconosciuto quando l'oggetto, diciamo, è già in negozio, e dire: ah, voi, ma allora me dovete magari una cifra pazzesca, che ne so, insomma quella roba lì, per cui non si usa. Però La carrozza d'oro è veramente uno dei capolavori della Magnani, uno dei capolavori di Renoir, quindi se lo aspettiamo, diciamo che lo aspettiamo. Comunque sicuramente il recupero di tanti capolavori è stato la vostra cifra, proprio la vostra carta d'identità, e sappiamo che la collana, appunto, Il Piacere del Cinema ha fatto 100, farà anche 200. Grazie a Vieri Razzini per essere stato qui con noi alla Rosa Purpurea. A presto. E noi torniamo torniamo da Giulio San Giorgio per farci raccontare un paio di film da vedere la prossima settimana in chiaro sui palinsesti televisivi. Cominciamo con un thriller horror che ha un po' segnato la storia del genere, come La Cosa di John Carpenter. Sì, martedì su Mediaset Italia 2 alle 21.30 La Cosa, uno dei film più celebrati di John Carpenter e uno dei capisaldi teorici dello splatter, ma anche una grande opera di fantascienza, genere che per Carpenter è veramente l'altra faccia del western, con una minaccia dal cielo che costringe gli uomini alla classica situazione nella dialettica cowboy e indiani, ovvero l'assedio. La differenza è che la minaccia questa volta viene da dentro, l'assedio è quello delle identità, con un nemico che può prendere le sembianze del prossimo tuo. Finale cupissimo, remake di un classico del 51, ma è anche un classico a sua volta. E La Cosa di John Carpenter è in onda su Italia 2 alle 21.30 di martedì 8 dicembre. Mercoledì invece alle 21.05 sulla F c'è Diamante Nero. Sì, mercoledì 9 dicembre alle 21.05 sulla F in prima visione TV Diamante Nero, l'ultimo film di un'ottima regista francese, Céline Sciamma, che come d'abitudine è una storia di formazione identitaria, è quella di Mariem che viene dalla banlieue con un broncio e con tanto furore, con un amore allo stato nascente, un padre che manca, una madre assente, un fratello violento e una scuola che non le interessa. E poi c'è il rapporto con la sorella, c'è una banda di ragazze che la coinvolge, che la educa alla strada, mentre il suo corpo è proprio un teatro di guerra tra ormoni e coscienza, un luogo di elaborazione del mondo esterno. C'è tutto questo in questo film fatto di frammenti di esistenza, nessuna didascalia, zero moralismo, ma un ritratto d'adolescenza di rara grazia, esattezza e bellezza. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine della Rosa Purpurea, come ci raccontano le note della nostra sigla. Noi vi diamo appuntamento fra 7 giorni qui su Radio 24, come sempre il sabato alle 18, a raccontare tutto il cinema che c'è.